Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Padre e figlio. La notizia dell'arrivo del Faraon non era ancora giunta al vecchio padre di Dantes, che in piedi sopra una cassa era occupato a legare con mano tremante dei nasturzi misti a clematidi che si arrampicavano lungo l'inferriata della finestra. A un tratto si sentì circondare il corpo da due braccia e udì una voce ben nota gridare dietro di lui: «Padre! Mio buon padre!» Il vecchio gettò un grido e si voltò. Poi, vedendo il figlio, si lasciò cadere tra le sue braccia tutto tremante e pallido. «Cosa avete, padre?» esclamò il giovane preoccupato. «Siete ammalato!» «No, no, mio caro Edmond, ragazzo mio, no. Ma non ti aspettavo e la gioia, la sorpresa di rivederti così all'improvviso... Mio Dio, mi sembra di morire. Coraggio, riprendetevi, padre, sono io, proprio io. Si dice sempre che la gioia non fa male, perciò sono entrato così, senza preavviso. Guardatemi, sorridetemi invece di osservarmi con occhi spaventati. Sono tornato e saremo felici». «Tanto meglio, ragazzo», riprese il vecchio. «Ma come potremo essere felici? Vuoi dire che non mi abbandonerai più? Ah, su, raccontami la tua felicità». «Che il Signore mi perdoni», disse il giovane, «di rallegrarmi di una felicità ottenuta al prezzo del lutto di una famiglia, ma Dio sa che non l'ho desiderata. Mi è capitata e non ho la forza di affliggermene. Il bravo capitano Leclerc è morto. Ed è probabile che con la protezione del signor Morrel io prenda il suo posto. Capite, padre mio? Capitano, a 20 anni! Con 100 luigi di stipendio e una percentuale sui guadagni. Non è molto più di ciò che poteva sperare un povero marinaio come me». «Sì, sì, figlio mio, sì, è proprio una gioia», rispose il vecchio. Perciò io voglio che con il mio primo denaro riscosso voi abbiate una casetta con un giardino per piantare le vostre clematidi, i vostri nasturzi e il vostro caprifoglio. Ma che avete, padre? Si direbbe che stiate male». «Pazienza, pazienza, non sarà nulla». E mancandogli le forze, il vecchio cadde. «Coraggio!» disse il giovane. «Un buon bicchiere di vino, padre mio, vi rianimerà. Dove tenete il vino?» E aprì 2 o 3 credenze. «È inutile», disse il vecchio. «Non c'è più vino». «Come non c'è più vino?» esclamò Dantes impallidendo. «Siete rimasto senza denaro, padre?» «Non mi manca niente, poiché tu sei qui», rispose il vecchio. «Ma...» balbettò Dantes asciugandosi il sudore che gli colava dalla fronte. «Vi avevo lasciato 200 franchi 3 mesi fa, prima di partire». «Sì, sì, Edmond, è vero. Ma tu nel partire avevi dimenticato un piccolo debito con il vicino Caderousse. Lui me lo ha ricordato, dicendomi che se non avessi pagato per te, si sarebbe fatto pagare dal signor Morrel. E allora, capisci, per paura che la cosa ti danneggiasse... Allora ho pagato io». «Ma!» esclamò Dantes. «Il mio debito con Caderousse era di 140 franchi. «Sì», balbettò il vecchio. «E voi li avete presi dai 200 franchi che vi avevo lasciato?» Il vecchio fece un cenno affermativo con la testa. «Quindi siete vissuto per 3 mesi soltanto con 60 franchi, mormorò il giovane. «Ma tu sei qui», disse il vecchio sorridendo. «Ora è tutto dimenticato e va tutto bene. Sì, sì, io sono qui. Eccomi, con un bell'avvenire e un po' di denaro. Prendete, padre», disse il giovane. «Prendete e fate comprare subito qualcosa». E vuotò sulla tavola la borsa che conteneva 12 di monete d'oro, 5 o 6 scudi da 5 franchi, e degli spiccioli. «Prima di tutto prendete una persona di servizio, non voglio più che restiate solo. Ho del caffè, sì, e dell'eccellente tabacco di contrabbando in una cassetta nel fondo della stiva, l'avrete domani. Ma sento arrivare qualcuno». Sarà senz'altro Caderus che ha saputo del tuo arrivo e viene a darti il benvenuto. Bene. Ecco altre bocche che parlano in un modo e pensano in un altro, mormorò Edmond. Ma non importa. È un vicino che una volta ci ha reso un favore. Che sia il benvenuto. Caderus era un uomo di 25-26 anni, con un pezzo di panno fra le mani che da buon sarto si preparava a trasformare nei risvolti di un abito. «Ah, eccoti dunque di ritorno, Edmond!» esclamò con un pronunciato accento marsigliese e con un largo sorriso che gli scopriva dei bellissimi denti bianchi come l'avorio. «Come vedete, vicino Caderus, è pronto a servirvi in qualunque cosa!» rispose Dantès mal dissimulando la sua freddezza nel fare questa offerta. «Grazie, grazie, fortunatamente non ho bisogno di nulla, io. Sono gli altri che qualche volta hanno bisogno di me.» Dantès fece un movimento di impazienza. «No, no, no, no, non dico per te, giovanotto. Io ti ho prestato del denaro e tu me lo hai reso, come si fa tra buoni vicini. Siamo pari.» «Non si è mai pari con quelli che ci hanno aiutato», rispose Dantès. «Quando non gli si deve più denaro, gli si deve riconoscenza.» «Perché parlarne? Quel che è stato! Parliamo del tuo felice ritorno, giovanotto! Ero andato al porto per cercare del panno marrone da acquistare, quando ho incontrato l'amico Danglars.» «Tu, a Marsiglia?» gli ho chiesto. «Sì, proprio io», mi ha risposto. «Ti credevo a Smirne. Vengo proprio di là.» «E Edmond, dov'è il ragazzo?» «Certamente da suo padre», ha risposto Danglars. «E allora sono venuto qua per avere il piacere di stringere la mano ad un amico.» «Questo buon Caderus», disse il vecchio, «ci vuole proprio bene.» «Ebbene, Edmond, eccoti dunque ben sistemato con il signor Morrel.» «Furbacchione», disse Caderus. «Il signor Morrel è sempre stato molto buono con me», rispose Dantès. «In questo caso hai fatto male a rifiutare il suo pranzo.» «Come rifiutare il suo pranzo?» riprese il vecchio. «Ti aveva invitato a pranzo?» «Sì, padre mio», rispose Edmond sorridendo della meraviglia che procurava suo padre l'onore eccessivo di cui lo credeva oggetto. «E perché mai hai rifiutato, figlio mio?» domandò il vecchio. «Per venire subito da voi, padre mio», rispose il giovane. «Avevo fretta di vedervi.» «Però sarà dispiaciuto al buon signor Morrel», soggiunse Caderus. «Quando uno aspira a diventare capitano, sbaglia a contrariare il suo armatore.» «Gli ho spiegato il motivo del mio rifiuto», rispose Dantès. «E l'ha compreso?» «Spero.» «Ah, per diventare capitano bisogna blandire un po' di più i padroni. Spero di diventarlo senza comportarmi così.» «Tanto meglio, tanto meglio. Questo farà piacere ai tuoi vecchi amici. E so che c'è qualcuno laggiù dietro alla cittadella di Saint-Nicolas che ne sarà molto contento.» «Mercedes», disse il vecchio. «Sì, padre mio», confermò Dantès. «E con il vostro consenso, ora che vi ho visto e so che state bene, che avete tutto ciò che vi occorre, vi chiederei il permesso di andare dai catalani.» «Ah, va, figlio mio, va», disse il vecchio Dantès. «E Dio ti benedica nella tua donna, come ha benedetto me nel mio figlio.» «La sua donna?» esclamò Caderus. «Correte troppo, papà Dantès, non lo è ancora, mi pare.» «No», rispose Edmond. «Ma di certo non tarderà molto a diventarlo». «Non importa, non importa», disse Caderousse. «Fai bene a sbrigarti, ragazzo». «E perché?» «Perché Mercedes è una bella ragazza, e le belle ragazze non mancano di innamorati. Lei, in particolare, la inseguono a dozzine». «Davvero?» chiese Edmond con un sorriso che nascondeva un'ombra di inquietudine. «Oh, sì», rispose Caderousse, «e anche bei partiti, ma tu vedi, stai per diventare capitano, si guarderà bene dal rifiutarti». «Questo significa», disse Dantès con un sorriso che mal dissimulava la sua inquietudine, «che se io non diventassi capitano?» esclamò Caderousse. «Andiamo, andiamo», concluse il giovane. «Io ho un'opinione migliore di voi sulle donne in generale e su Mercedes in particolare. E sono convinto che, capitano o no, mi resterà fedele». Abbracciò suo padre, salutò con un cenno del capo Caderousse e partì. I catalani. Il villaggio dei catalani si innalzava dietro una collinetta brulla e arida per il sole e il maestrale. Occorre che i nostri lettori ci seguano per l'unica strada di questo piccolo villaggio ed entrino con noi in una delle case alle cui facciate il sole ha donato un bel colore di foglia morta, tipico dei monumenti del paese, mentre gli interni hanno uno strato di calce, una tinta bianca che costituisce il solo ornamento delle osterie spagnole. Una bella ragazza, dai capelli corvini e gli occhi vellutati come quelli di una gazzella, stava in piedi, appoggiata ad un tramezzo, sfrondando tra le sue dita affusolate e di disegno antico un'innocente erica di cui strappava i fiori e i cui pezzetti erano disseminati sul pavimento. Le sue braccia, nude fino al gomito, braccia brune, ma che sembravano modellate su quelle della Venere d'Arles, fremevano con impazienza febbrile, e lei batteva il pavimento con il piede agile e arcuato, in modo che si intravedeva la forma pura e ardita della gamba, fasciata da una calza di cotone rosso a disegni grigi e azzurri. a 3 passi da lei, sopra una sedia che dondolava con un movimento a scatti, con il gomito appoggiato a un vecchio mobile tarlato, sedeva un robusto giovane di 20-22 anni, che la guardava con un'aria mista di inquietudine e dispetto. I suoi occhi erano interrogativi, ma lo sguardo fermo e fisso della ragazza dominava il suo interlocutore. «E su, Mercedes», diceva il giovane, «fra poco sarà Pasqua, un periodo buono per sposarsi, datemi una risposta». «Vi ho risposto 100 volte, Fernand, e bisogna davvero che siate nemico di voi stesso per rifarmi la domanda. Io amo Edmond Dantès, e nessun altro fuorché Edmond sarà il mio sposo. E lo amerete sempre? Finché vivrò». Fernand chinò la testa scoraggiato ed emise un sospiro che assomigliava ad un gemito. Poi ad un tratto, alzando la fronte, coi denti serrati e le narici semiaperte, chiese: «Ma se è morto?» «Se è morto, io morirò». «Ma se vi dimentica?» «Mercedes!» chiamò una voce gioiosa fuori dalla casetta. «Mercedes!» «Ah!» esclamò la ragazza, arrossendo di gioia ed esultando d'amore. «Vedi bene che non mi ha dimenticato! Eccolo qua!» E si lanciò verso la porta, che aprì gridando: «Sono qua, Edmond! Eccomi!» Fernand, pallido e fremente, indietreggiò come un viaggiatore alla vista di un serpente e, urtando la sedia, vi ricadde a sedere. Edmond e Mercedes erano l'uno nelle braccia dell'altra. Il sole ardente di Marsiglia, che penetrava dalla porta aperta, li inondava di un torrente di luce. Sulle prime non videro niente di ciò che li circondava. Una felicità immensa li isolava dal mondo, e si parlavano con quelle parole smozzicate che sono gli slanci di una gioia così viva da sembrare manifestazione di dolore. Ad un tratto Edmond si accorse della figura cupa di Fernand nell'ombra, pallida, minacciosa. Con un movimento di cui egli stesso forse non si rese conto, il giovane catalano teneva la mano sul coltello infilato nella cintura. «Scusate!» disse Dantès, aggrottando a sua volta le sopracciglia. «Non mi ero accorto che eravamo in tre». Poi, rivolto a Mercedes, chiese: «Chi è questo signore?» «Questo signore diventerà il vostro migliore amico, dato che è il mio migliore amico. È mio cugino, è mio fratello, è Fernand, cioè l'uomo che dopo di voi, Edmond, amo di più su questa terra». Dette queste parole, la ragazza posò il suo sguardo imperioso sul catalano, il quale si avvicinò lentamente a Edmond e gli tese la mano. Il suo odio, simile a un flutto impotente, benché furioso, veniva a infrangersi contro l'ascendente che questa donna esercitava su di lui. Ma appena ebbe toccato la mano di Edmond, sentì di aver fatto tutto ciò che poteva e si lanciò fuori della casetta correndo come un pazzo. «Ehi, Fernand, dove corri?» gridò una voce. Il giovane si arrestò di colpo, guardò attorno a sé e riconobbe Caderousse seduto a tavola con Danglars sotto un pergolato di foglie di vite. «Ehi!» ripeté Caderousse. «Perché non vieni qui? Hai così fretta da non avere il tempo di salutare gli amici? Vieni qui!» Thank you. Fernand entrò lentamente sotto il pergolato dell'osteria, dove l'ombra sembrò dargli un po' di calma e la frescura un poco di sollievo. «Buongiorno», disse. «Mi avete chiamato, vero?» E più che sedersi, si lasciò cadere su una delle panche poste intorno alla tavola. «Ebbene, vuoi proprio che te lo dica, Fernand?» riprese Caderousse, avviando la conversazione con quella villana brutalità della gente del popolo alla quale la curiosità fa dimenticare ogni diplomazia. «Hai l'aria di un innamorato respinto!» E accompagnò questa battuta con una gran risata. «Povero ragazzo!» riprese Danglars, fingendo di compiangerlo dal profondo del cuore. «Cosa vuoi? Lui non si aspettava di vedere ritornare Dantès così presto. Forse lo credeva morto, o infedele, o che ne so. Queste cose sono tanto più sconvolgenti quanto più ci colgono all'improvviso». Intanto Danglars teneva fisso il suo sguardo indagatore sul giovane. «E a quando le nozze?» domandò. Non sono ancora decise», mormorò Fernand. «No, ma si faranno», replicò Caderousse, «così come Dantès diventerà capitano del Faraon, non è vero, Danglars?» Danglars sussultò a quel colpo inatteso e si voltò verso Caderousse, di cui studiò i lineamenti per capire se era stato un attacco premeditato. Ma su quel viso, fattosi quasi ebete per l'ubriachezza, lesse solo invidia. «Ebbene», disse riempiendo i bicchieri, «beviamo dunque alla salute del capitano Edmond Dantès, marito della bella catalana!» Caderousse portò il bicchiere alla bocca e con mano tremante lo tracannò d'un fiato. Fernand prese il suo e lo gettò per terra. Disse Caderousse. «Cosa vedo sull'alto del promontorio, laggiù verso il villaggio dei catalani? Guarda tu, Fernand, che hai una vista migliore della mia! Credo di cominciare a vedere doppio e tu sai che il vino è traditore, sì. Si direbbe che i due innamorati passeggino vicini la mano nella mano. Il cielo mi perdoni, non sanno di essere visti. Ecco che si abbracciano!» A Danglars non sfuggivano le sofferenze di Fernand, il cui viso si contraeva sempre di più. Li riconoscete, signor Fernand?» chiese. «Sì», rispose questi con voce sorda, «sono Edmond e Mercedes». Guarda, disse Caderousse, «e io che non li avevo riconosciuti. Sì, ehi, bella ragazza! Ehi, Dantès! Diteci quando si faranno le nozze, poiché Fernand non ce lo vuole dire!» «Vuoi tacere?» disse Danglars, facendo finta di trattenere Caderousse, che con l'ostinazione dell'ubriaco si sporgeva dal pergolato. «Hola!» continuava a gridare Caderousse, mezzo alzato e con i pugni sul tavolo. «Hola, Edmo! Non riconosci gli amici? O sei già diventato così superbo da non parlare con loro?» «No, mio caro Caderousse», rispose Dantès, «non sono superbo, sono felice. E la felicità acceca, credo, molto più della superbia». «Dunque le nozze avverranno quanto prima, signor Dantès?» chiese Danglars, salutando i due giovani. «Il più presto possibile, signor Danglars. Oggi verranno presi tutti gli accordi con mio padre e domani, al più tardi, si farà il pranzo di fidanzamento, qui, alla Réserve». «Avete molta fretta», osservò Danglars. «Che diavolo! Ne abbiamo del tempo? Il faraon non salterà prima di 3 mesi. Si ha sempre fretta di essere felici, signor Danglars, perché quando uno ha sofferto a lungo, stenta a credere alla felicità. Ma non è solo l'egoismo che mi fa agire così. Devo andare a Parigi». «Ah, davvero? A Parigi? È la prima volta che vi andate, Dantès?» «Sì, per affari». «Non per mio conto. Devo portare a termine l'ultimo incarico del nostro capitano Leclerc. Voi capite, Danglars, che questo è un dovere sacro. D'altronde, state tranquillo. Mi prenderò solo il tempo necessario per andare e tornare». Sì, capisco», disse a voce alta Danglars. Poi soggiunse fra sé, abbassando il tono: «A Parigi, senza dubbio per consegnare al suo indirizzo la lettera che gli ha affidato il gran maresciallo. Perbacco! Questa lettera mi fa nascere un'idea, un'eccellente idea. Ah, signor Dantès, amico mio, non hai ancora dormito a bordo del Faraone, nella cabina numero uno. Poi, rivolto a Edmond che già si stava allontanando, buon viaggio! Gli gridò dietro. Andrea Giordana ha letto Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Regia Anna Antonelli. Riduzione Chiara Nicoletti. Coordinamento Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it